Dà, ma quanto cazzo hai fatto? Non ho capito. Ma scusa, mamma mia, che... La stiamo facendo... No, aspetta, Davide, la stiamo facendo troppo complicata. La stiamo facendo troppo complicata. Davide. Cioè, sì, ti arrivo in La ritardo, stiamo facendo eh. troppo complicata. Faccio un giro stupidissimo. Do sol la minore fa. E sul mio terzo giro attacchi tu. Sul mio terzo giro attacchi tu, ok? Sì, ma sul terzo giro cioè il terzo accordo o 3 volte fai il giro? Hai detto terzo giro, dovrebbe essere il terzo giro. Al terzo giro, cioè praticamente al terzo do che prendo, cioè do sol la minore fa ed è 1, do sol la minore fa ed è 2, qui ti infili tu. E vai.